A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, quasi 20 milioni di telespettatori ieri sera, 19.776.000, 67% e passa di share per la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda, con un picco finale evidentemente in quei 2-3 minuti in cui i cultori del sospetto ad ogni costo ancora temevano che la Spagna avrebbe fatto pareggiare la Croazia. Naturalmente nessuno alla fine che aveva sentito l'elementare dovere di chiedere scusa agli spagnoli, ma anche ai croati, per aver applicato a loro la nostra mentalità malata. Il commento a caldo di Prandelli, che certamente non ha visto, non può aver visto, non credo, una bella Italia, tantomeno una grande Italia, ma ha sottolineato come giustamente l'Italia perlomeno abbia saputo soffrire fino alla fine. Sofferenza, gioia, c'è di tutto. Questa è stata una partita molto molto difficile, perché abbiamo affrontato una squadra e una gente, un pubblico meraviglioso. Questo è lo sport, noi abbiamo accettato di soffrire anche in certi momenti, però abbiamo voluto questa vittoria. È stata una partita dove probabilmente abbiamo capito che dobbiamo mettere, al di là della tecnica, della qualità, anche molto cuore. Stasera l'abbiamo fatto. Noi dobbiamo pensare 24, che la prossima partita sarà una partita come questa. Sì, quindi sì. Al di là delle situazioni, che non abbiamo molto tempo, dobbiamo mettere il cuore, generosità, come hanno fatto questi ragazzi stasera. Qualche numero, qualche curiosità statistica di quella di Franco Piantanida, la più significativa mi pare questa. Ieri con quel gol di testa nel primo tempo, che ha sbloccato il risultato e che ha orientato la partita, Antonio Cassano è diventato il miglior marcatore italiano nella storia degli europei con 3 gol. E che vuol dire che non abbiamo mai avuto evidentemente giocatori molto prolifici in questa manifestazione che all'Italia storicamente non dice bene, no? Con la sola eccezione della vittoria del 68. Però è anche vero comunque che se pensiamo a com'era conciato il povero Cassano qualche mese fa, e oggi non solo prendiamo atto di questo gol di ieri sera, della partita eccellente che ha giocato, di come sta giocando questi europei, e per giunta eppure diventato il miglior marcatore azzurro, beh, credo che a ottobre, novembre lo scorso anno ben pochi, e forse nemmeno lui, avrebbero osato sperarlo. Si è chiusa finalmente, dopo 6 partite, la striscia senza vittorie dell'Italia, che mancava da un 2-0 alla Francia nella terza partita di Euro 2008, e da allora tra europei e mondiali c'erano stati risultati soltanto negativi o parziali. Adesso si ripartirà probabilmente proprio dalla Francia, perché se tutto va abbastanza normale nelle sfide di stasera tra Inghilterra, Ucraina e Francia-Svezia, dovrebbe essere la Francia a vincere il girone, e quindi domenica sera i francesi dovremmo trovare, proprio come nel 2008, proprio come nel 2000, eccetera eccetera. Una sfida incrociata che nelle ultime grandi manifestazioni si è ripetuta spesso con esiti alterni. Però è anche vero che questo è secondo logica, e finora di grande logica questi europei non l'hanno avuta, e le sorprese sono state all'ordine del giorno. Di sorprendente, dicevo all'inizio, per qualcuno c'è stato anche il fatto che Spagna e Croazia abbiano giocato magari male, ma sul serio. E invece da parte loro c'era lo stupore, evidentemente, per il fatto che qualcuno avesse osato dubitare della loro lealtà. Poi c'è stato questo strano commento del principale dei nostri maître-à-penser, che continua a essere Buffon. L'unica preoccupazione era la nostra partita, per me, perché pensavo che gli spagnoli facessero quello che poi alla fine hanno fatto. Ne avevo l'assoluta convinzione, e alla fine è stato così, meglio per noi. Sicuramente un grande grazie va anche a loro, e come dissi 4 anni fa agli olandesi che ci fecero qualificare battendo la Romania nonostante non gli servisse, anche la Spagna devo dire che avranno sempre un bonus con noi. Non dimenticatelo voi, perché io magari tra 2-4 anni, quelli che ce l'hanno, smetterò, ma voi ci sarete sempre, per cui certe cose non vanno scordate. Questo era il bonus, ripeto. Io ho l'impressione che davvero manchi un tutor nell'ufficio stampa della Federcalcio, che sorvegli, che controlli, che si affianchi, che temperi, che misuri, insomma, che faccia qualcosa di questo genere. Perché sincero, in campo ci ha pensato Bonucci con Balotelli, no? È arrivato, gli ha messo la mano sulla bocca, l'ha stoppato, Balotelli poteva a quel punto dire o fare qualsiasi cosa, e invece niente, si è, grazie a Bonucci si è limitato a fare quel magnifico gol e poi a starsene sereno. Il silenzio è d'oro, caro Gigi, scrive Piero da Milano. Non sono io, però sarebbe il professor Buffon il destinatario, leggendo questa mail. Né il Trap né Tardelli hanno cantato l'inno di Mameli, scrive Gianni da Siracusa. Farlo avrebbe forse diminuito la loro professionalità e correttezza? Non è che l'inno viene considerato un inno di guerra come la H degli All Black? Che ne pensa? Penso che noi a crearci falsi problemi, caro Gianni da Siracusa, siamo maestri assoluti. Ogni tanto mi capita di rivedere le grandi partite del passato, quelle di Messico 70, quelle di Spagna 82, non c'è un solo giocatore che canti l'inno, eppure mi sembra che quelle squadre fossero discrete e fossero composte da grandi giocatori e da persone molto per bene. Non, sinceramente mi sembra davvero un falso problema. Se invece vogliamo fare un ragionamento proiettato, io l'ho già buttato lì altre volte, credo che così come una competizione per squadre nazionali è riservata evidentemente a giocatori di quella nazionalità, io credo che dovrebbe valere anche per gli allenatori. Sono contrario personalmente al fatto che in un mondiale o in un europeo ci siano allenatori stranieri a guidare alcune nazionali. Andiamo avanti con un ripasso vocale della serata. Beh, il debutto all'europeo di Balzaretti, che è stato oggettivamente positivo. C'era la sensazione che potessi giocare e niente, sono stato contento perché mi ha fatto giocare questa partita, vuol dire che ha molta fiducia in me, perché insomma era una partita decisiva, quindi sono contento. C'era grandissima carica, l'allenamento, quello che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti, le prestazioni sono state ottime, come ci stiamo allenando, come ci siamo preparati a questo europeo, e la quotidianità del gruppo è eccezionale, e quindi eravamo convintissimi di poter passare questo turno, soprattutto eravamo concentratissimi sul vincere questa partita. Potrebbe spiegare, scrive Amedeo, perché il pareggio tra Spagna e Croazia sarebbe stato per noi pericoloso. Amedeo, basta, cioè dopo la tortura è durata fino a ieri, adesso se Dio vuole arriva la fase a eliminazione diretta. Sento dire, scrive Giacomo Podestà, che si firma Cuore Granata tra l'altro, Giacomo Podestà scrive, secondo la maggior parte dei giornalisti italiani avrebbero ancora potuto accordarsi a 3 minuti dalla fine e far pareggiare la Croazia e cacciarci fuori all'europeo, ma lei sembra plausibile. Quando finirà in Italia questa cultura del sospetto alimentata sempre da giornalisti che cavalcano tutti la stessa onda e non ragionano con la loro testa? Ecco, il problema è proprio quello. Non so se del ragionare o addirittura andando alla fonte della testa. Gianluca dalla provincia di Roma, il primo che ha chiamato all'800 24 00 24, il numero come sempre per intervenire in diretta. Dica Gianluca. Salve Granzini, buonasera a tutti quanti. Io volevo fare un breve intervento sulla dichiarazione di Buffon. Faccio una piccolissima premessa. Io vengo dal mondo del rugby, ho smesso l'anno in cui siamo stati promossi in Serie A. E io, tutto questo scandalo che si vuol far credere sulla dichiarazione di Buffon, non lo leggo, perché chiaramente ogni dichiarazione di qualsiasi segno e provenienza può avere sempre delle chiavi di letture più disparate. E io credo che l'intervento di Buffon l'ho letto in questo modo, nel senso che nel caso in cui una volta, anche avvalorato dal fatto che Buffon ha detto tra 2 o 4 anni che io smetterò, quindi non un bonus personale di Buffon nei confronti della Spagna. Ma ci mancherebbe ancora Gianluca, eh? Non era un bonus da tabaccheria quello, nessuno l'ha detto e nessuno, lei ha usato la parola scandalo, nessuno ha parlato di scandalo, tantomeno io ne faccio soltanto una questione di buon gusto e di opportunità. Cioè nel caso in cui nell'evenienza che si dovesse ricreare una situazione in cui siamo noi che se vinciamo facciamo qualificare la Spagna, non facciamo ragionamenti di formazione ragionamenti di... E le pare una cosa da dire, ma abbia pazienza Gianluca, ma le pare che il capitano, se questa fosse la se questa fosse l'esegesi delle alate parole di Buffon, ma le sembra che questo sarebbe un discorso, un ragionamento da capitano della nazionale italiana? Secondo me noi abbiamo perso completamente i parametri di fondo, mi scusi, C'è una possibilità remota di ripercorrere lo stesso cammino ai mondiali 2006, mi fa notare Franco Piantanida, perché si potrebbe beccare l'Ucraina ai quarti, la Germania in semifinale e la Francia in finale, esatto. Cioè se ovviamente dipende dai risultati nostri e altrui, ma se stasera si qualificasse l'Ucraina, Italia e l'Inghilterra, in effetti, con la Francia che passa prima, l'Ucraina seconda, noi potremmo beccare davvero l'Ucraina ai quarti, la Germania in semifinale e la Francia in finale. Replay del 2006, questa non è male davvero. Ieri sera tornavo da un viaggio di lavoro, scrive Dario Barbieri, e l'unico modo per seguire l'Italia è stata la radio in diretta in auto. Per fortuna ho ascoltato solo l'ultima mezz'ora. Il telecronista di Spagna-Croazia ha citato una dozzina di volte il neo entrato Santi Cazorla, fino a fargli segnare addirittura il gol del vantaggio. Vedo che in regia il nostro regista Matteo Come sta annuendo vigorosamente, perché anche lui evidentemente era in auto, eccolo là che fa ampiceni, era in auto e ha sentito che questo Santi Cazorla, continuamente nominato dal radiocronista, alla fine su quell'assist di Iniesta aveva segnato il gol della vittoria spagnola. Poi una volta a casa ho potuto constatare, conclude Dario Barbieri, che Santi Cazorla non era nemmeno entrato e che tutto quello che aveva combinato era invece riconducibile a Jesús Navas. Renato, provincia di Frosinone, buongiorno. Sì, salve, buonasera. Io anche intervenivo sulla questione di Buffon. Sì. Francamente bisognerebbe chiedere a Buffon che cosa intendeva lui per bonus, forse a parte invertite, che cosa avrebbe fatto o che cosa avrebbe ritenuto opportuno fare per la sua squadra? Semplicemente questo andava chiesto a Buffon a freddo nell'intervista. Sì, andava chiesto, sì, gli andrebbero fatte un tot di domande a Buffon e non solo a lui, ma niente, cosa vuole? Arrivano queste dichiarazioni, uno le ascolta, si passa dal trasalimento allo sbalordimento, secondo la gamma, no? La gamma reattiva è questa, e poi alla fine si conclude che sta pur sempre parlando Buffon. Federico d'Alessandria scrive: non si parla della preparazione fisica, a essere gentili almeno approssimativa, curata dal figlio di Prandelli. Se lo stesso fosse accaduto con Lippi, domanda Federico, domanda evidentemente maligna, direi anche cattiva, però è vero che in fondo dei due preparatori atletici dell'Italia, uno è Niccolò Prandelli, figlio di Prandelli, che è stato aggregato, lavora al Parma, è stato aggregato quest'anno alla nazionale, evidentemente per espresso desiderio o scelta del commissario tecnico, e questo è un dato di fatto. L'altro dato di fatto è che l'Italia continua a calare nei secondi tempi, su questo non c'è dubbio, indipendentemente dalle sostituzioni che portano un po' di freschezza, che portano un minimo di condizione atletica in più da parte di chi subentra fresco. Sono due dati di fatto, poi il terzo è una cosa, evidentemente il parallelo con Lippi, evidentemente il figlio di Prandelli fa il preparatore, il figlio di Lippi faceva un altro mestiere. Sino ad ora i comportamenti di Prandelli e di suo figlio sono ineccepibili, i comportamenti del figlio di Lippi ai tempi dell'inchiesta meno, no? Indipendentemente da come poi l'inchiesta si è conclusa, e i sospetti che potevano riguardare l'interazione tra Lippi e il figlio e quelli tra Prandelli e il figlio sono evidentemente di natura molto ma molto diversa. Non si faccia diventare Balotelli un super attaccante, a noi manca proprio una punta per il contropiede, scrive Rosario da Napoli. Secondo me ieri sera ha giocato una signora partita di Natale, una signora e coraggiosa partita di Natale, che ha interpretato alla perfezione il ruolo, che è stato molto sfortunato su due o tre girate al volo che ha tentato. Una ha beccato lo stinco di uno che si è gettato in spaccata, un'altra poteva sembrava addirittura calcio di rigore a prima vista, e poi invece non lo era perché il difensore ha preso la palla tra petto e spalla, e comunque ha dato profondità, è venuto in conto quando era ora, ha fatto da partner ideale per Cassano sui movimenti e sugli incroci, soprattutto quando l'Italia nella prima mezz'ora stentava. Dopodiché il segnale dell'assalto che ha poi fruttato il gol di Cassano è arrivato proprio da 2-3 iniziative di Natale. Questo almeno a parer mio. Non ho avuto il sospetto che Balotelli volesse dedicarsi il gol, dice Prandelli, certo ha avuto anche coraggio in quella girata, non c'è nessun dubbio, quello è un colpo proprio da uno che le cose o le fa difficili oppure nemmeno ci prova, ed è stato un grande colpo. Certo, in quel quarto d'ora che ha giocato, Balotelli ha mostrato tutto il meglio e il potenziale peggio di sé, perché in ogni caso se l'arbitro vede quell'intenzione rigomitata, vede quel tentativo rigomitata ad Af, l'Italia finisce in 10 la partita, e quindi credo che ieri sera ancora di più Balotelli abbia, come dire, dichiarato se stesso, e cioè io sono quello che ha potenzialità tali che in qualunque momento può fare una grande prodezza, ma sono anche quello che in qualunque momento posso combinare il peggio che vi venga in mente. Enea, dalla provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno Gigi. Volevo intanto unirmi alle scuse da fare a Spagna e Croazia, perché quella manica di tuoi colleghi, se posso chiamarla, ne hanno detto di tutto e di più, hanno disegnato persino i biscotti sui giornali, cioè mi sembra veramente caduto molto in basso lo stile. E come contraltare abbiamo Buffon, prestimo, e che dice che gli dobbiamo qualcosa. No, loro hanno giocato, semplicemente si sono portati sportivamente, come noi non siamo abituati probabilmente. Io mi chiedo poi, e se vuoi rispondermi rispondi, se questi giornalisti, soprattutto Rai, faccio i nomi, se questi giornalisti fanno una scuola particolare oppure escono dall'università dove siete uscite voi e hanno imparato qualcosa, perché mi sembra veramente brutto, ecco, quello che è successo adesso. Meno male che non siamo riusciti a non farci male da soli, perché ci siamo andati molto vicini. Grazie. Grazie a lei, Enea. Mi esenti da questa cosa e mi lasci da questa risposta, sia gentile. E mi lasci leggere questo messaggio invece, che è firmato Roberto, arriva da Belluno, e fa riferimento al pronostico di ieri. Ieri a un certo punto, se vi ricordate, c'era un amico camionista che si era fermato, aveva giurato di aver parcheggiato il camion, ha mollato il suo pronostico, la Croazia avrebbe eliminato la Spagna e l'Italia avrebbe vinto 1-0 con un gol di Chiellini. E allora questo Roberto Rabelluro dice: il camionista, se non altro, ha portato una sfiga a Chiellini da mettere, non c'è dubbio, perché Chiellini l'europeo lo ha finito. Domenico, Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Sì, volevo commentare con lei le parole di Kim che mi hanno un po' spiazzato, insomma, se l'è presa con i suoi tifosi, dicendo: anche se perdiamo 4-0 continuate a cantare, a bere, ad applaudire. Forse, non lo so, lui vorrebbe che i tifosi li spronassero, non lo so, chiedo a lei. Ma di chi sono queste parole, mi scusi? Di Keane, dell'Irlanda. Ah, 4-0 con la Spagna, i tifosi sugli spalti hanno continuato a bere, a cantare, ad applaudire. Beh, insomma, è un altro modo di vivere il calcio. Il loro è certamente molto diverso dal nostro, e in fondo se si divertono così va bene così. Certo si divertono meno i tifosi, gli appassionati di Trieste e di Piacenza, visto che stamattina ne sono fallite due in un colpo solo. La triestina è fallita. Leggo che il curatore della società Turazza e il giudice Sansone hanno riscontrato l'assenza per l'ennesima volta di offerte d'acquisto. È stata dunque decisa anche la fine dell'esercizio provvisorio, che spiana la strada all'unica soluzione, il fallimento ordinario. Il Piacenza a sua volta è scomparso alla mezzanotte scorsa dal calcio professionistico, essendo anche lì scaduti i termini di esercizio provvisorio, e oggi i curatori fallimentari Franco Spezia e Germano Montanari portano i registri in tribunale. Due in un colpo solo, spiace per il Piacenza, spiace, se permettete, ancora di più per la Triestina, perché insomma le radici che la Triestina aveva nel calcio italiano, anche attraverso la leggenda di Paron Rocco, insomma, un minimo di magone non possono non metterlo. Giovanni da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Tre cose velocissime. Uno, vabbè, su Buffon lasciamo perdere, perché tanto grandissimo portiere con le mani, con i piedi, bravissimo, però quando apre la bocca è sempre meglio che sta zitto, fa troppi errori, troppe gaffe. Poi vorrei usare un attimo bastone carota per Thiago Motta. Allora, siccome non ho sentito nessuno comunque far altro che Thiago Motta, brasiliano, comunque gioca nella nazionale italiana, canta l'inno, è una cosettina da niente, però canta l'inno. Dove l'ho visto io comunque cantare l'inno, sono contento, visto che si parlava sempre di Amauri che abbassava la testa, Camoranesi che me lo cantava, lui lo canta. E invece anche il bastone, perché comunque io sinceramente ieri non l'avrei messo dietro Cassano e Di Natale. Abbiamo Diamanti, io sinceramente avrei preferito più Diamanti. Abbiamo il fantasista, perché mettere come fantasista Piagotta quando è lento come una lumaca? Grazie. Perché lento come una lumaca, ma la palla la fa correre, però il senso della posizione ce l'ha, i tempi dell'inserimento anche, e soprattutto ha una notevole esperienza internazionale che Diamanti invece non sa cosa sia. Diamanti non è un ragazzino, è un trentenne quasi, quindi insomma, è un giocatore, per carità, che ha qualità, ma che rappresenta certamente un'incognita più lui di Thiago Motta. Diamanti io credo che insomma possa essere quello che Prandelli che è stato ieri, e cioè possa essere una carta di riserva, possa essere una pedina da inserire a seconda di come stanno andando le cose, ma caricarlo della responsabilità di una partenza negli 11 io credo potrebbe anche essere un tantinello troppo. Stavo scorrendo questa specie di rassegna stampa straniera, AS, parlo di Spagna, titola Santo Iker della Spagna, cioè Iker è il nome di Casillas. Chi vorrà vincere contro la Spagna d'ora in poi non dovrà solo togliere la palla ai nostri giocatori, che già di per sé è complicato, ma dovrà anche superare i guanti di Casillas. Questo è il sommario di AS per l'appunto, mentre Marca, stesso argomento, Iker e la sua difesa del muro spagnolo è il titolo principale. La Croazia si compiace per essere uscita a testa alta, questo almeno risulta da un po' di rassegna stampa croata, ma Bilic, alla domanda ennesima se la pressione italiana, se la pressione degli italiani a proposito dell'eventuale combin abbia in un certo senso non condizionato, ma insomma abbia messo un'ulteriore pressione su di loro, ha risposto molto irritato: sono sicuro che anche voi giornalisti vi vergognate di essere costretti a farmi queste domande, che non è una brutta risposta. Giovanni, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Granzini. Dica. Io la premetto subito, non è che sia un grande intenditore di calcio, ma a me che lì mi sembra, cioè non sto gran giocatore, cioè per me è un pericolo, se io quando lo vedo in area contro gli avversari, cioè, mi viene la pelle d'oca a vederlo, cioè, per me è un bene che si sia fatto male, cioè niente a togliere che si sia fatto male, no, perché non si augura mai del male alla gente, però cioè, non mi sembra sto gran giocatore, sto gran terzino portato da tutti, che se manca Chiellini sembra che mancasse chissà che cosa all'Italia, cioè mi sembra un po' il giocatore dell'Inter che gli aveva dato la testata a Zidane, come ecco separati alla nascita, dice lei. Beh, adesso magari non proprio così, no, beh, adesso Chiellini è una persona, se parliamo di persone c'è un abisso, una persona matura ed educata. E, insomma, non merita certamente un paragone con Materazzi, ma dal punto di vista calcistico io qualche riserva ce l'ho, esattamente come ce l'ha lei e come insomma, qualcuno ha potuto ripassare non ieri, poveretto che ieri si è fatto male, dopo un paio di esitazioni ma non di più, quanto domenica scorsa col grave errore sul gol della Croazia. Giovanni, grazie. Balotelli apparecchia un momento di magia, scrive oggi il Sun. Apparecchia un momento di magia e insieme di follia. Può essere la stella di questo torneo, ma tutti noi sappiamo che ha le identiche probabilità di tornare a casa in disgrazia. Questa è evidentemente una traduzione essenziale, no? Non particolarmente brillante, ma insomma il concetto è abbastanza chiaro. Tu non sai mai se ti può apparecchiare, come scrivono gli inglesi, se ti può apparecchiare da un istante all'altro una magia o una pazzia. Andrea Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini, grazie. Dica. Per la possibilità. Sì, niente, io volevo fare così un Volevo spiegare una sensazione che ho io, nel senso che corsi e ricorsi dicono che nell'82 c'era quella storia di Rossi e poi sappiamo com'è andata a finire, parlo di scommesse, 2006 idem e sappiamo com'è andata a finire, quest'anno c'è un inizio di bufera che non si sa come andrà a finire, lo vedremo poi al termine dell'Europeo, considerando che le squadre che ho visto almeno io finora, Germania e Spagna, anche se un po' in calo finora, non mi sembrano quel granché. Io ho paura che nonostante giochiamo così, dobbiamo anche essere un po' ottimisti. Questa è un po' la mia sensazione. Grazie Andrea. Frandelli dice che i primi accertamenti riguardo a Chiellini non sono belli, ha usato questa espressione, e quindi insomma è la conferma, ma che d'altra parte era stata la sensazione immediata di ieri sera, conferma che l'europeo di Chiellini dovrebbe essere finito. Ora il problema serio è questo, che i difensori sono quasi finiti, nel senso che facendosi male Chiellini ed essendo indisponibile credo da qui alla fine agli europei, Barzagli è, ieri per fortuna è rientrato bene e non ha avuto problemi, però è pur sempre un rientrante, quindi insomma c'è da sperare, no, che la condizione regga. Dopodiché resta Bonucci, perché se Barzagli o Bonucci avessero un raffreddore deve giocare De Rossi, no, c'è Ogbonna ancora, c'è ancora Ogbonna, questa sarebbe, però diciamo che è un reparto in cui le forze sono un tantinello contate. Denis, provincia di Udine, buongiorno. Ah, buongiorno Garanzini, volevo fare una considerazione e nello stesso tempo dare ragione a lei sul discorso di Di Natale in nazionale. Sarò di parte, ma credo che un giocatore così che finalizzi i contropiedi italiani come ha fatto a Udine non ce ne siano. Dunque da adesso in poi Di Natale non deve uscire. E sono sicuro che se quel gol di esterno andava dentro, a Udine gli avrebbero fatto sicuramente un bel busto allo Stadio Friuli. Grazie e la sento con volentieri. Arrivederci. Grazie a lei. Denis, io andrei a sentire Marchisio e quella paura di cui ha parlato dell'ultimo minuto, di quando la partita d'Italia era già conclusa e l'altra invece stava continuando perché il recupero era giustamente più lungo. Visto nell'ultimo corner Gigi venire su, no? L'ho detto, vedere che hanno fatto l'1-1, perché noi non sapevamo benissimo il risultato, perché dalla panchina non si riusciva a comunicare bene. E poi credo che oltre alla grande vittoria e alla qualificazione, l'ultimo minuto lì in panchina è stato penso la cosa più emozionante, perché abbiamo aspettato finalmente la fine della loro partita e ora cambia l'europeo per noi. Oltre col cuore, anche con il carattere di tutti quanti, anche di chi è entrato poi il secondo tempo, come Diamanti e anche Mario, no? Che è entrato il secondo tempo e ha fatto il gol del 2-0. C'è stato grande agonismo da parte di tutti quanti fino all'ultimo, abbiamo sofferto un po' le loro palle lunghe con i loro saltatori negli ultimi minuti, però la squadra ha retto bene e questa è la cosa più importante. E questo era Marchisio, che ha giocato un'altra buona partita, a differenza di Pirlo, in flessione abbastanza evidente rispetto alle prime uscite, ma questo è abbastanza normale perché Pirlo quest'anno non ha saltato un match, li ha giocati tutti ad alto o altissimo livello, però giocava ogni 7 giorni e adesso invece qua ogni 4 il ritmo è un pochino diverso. Adesso ne passano 6 da ieri sera alla Francia e potrebbe recuperare, sperando che poi le ravvicinate semifinale e finale eventuali invece non ricomplichino la situazione. Ma nessuno riesce a mettere la mano sulla bocca di Buffon, scrive un ascoltatore. Ecco, mi pare che abbia centrato il problema Bonucci, cioè d'ora in poi probabilmente bisognerebbe che Bonucci e gli altri, oltre a scaraventarsi su Balotelli, lo facessero preventivamente anche su Buffon. Luca, chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Condivido innanzitutto il suo commento su Pirlo, nel senso che con tutte le partite che ha fatto quest'anno non si può chiedere di più un giocatore che ha dato tanto comunque. Uh-huh. E invece volevo chiedere, puntare il dito soprattutto su Prandelli, nel senso io sono convinto che a questa nazionale qui possa richiedere la qualità, è quella che è, e l'espressione del gioco penso sia la conseguenza anche del livello dei giocatori che abbiamo. Invece la parte atletica è quella che mi lascia più perplesso. E sinceramente, quando ho saputo che il figlio di Prandelli era il preparatore atletico della nazionale, sono rimasto indignato, perché è pur sempre un posto statale e si vuole dare l'esempio. Penso che un allenatore come Prandelli, che io stimo, sia caduto veramente in basso. Lei cosa pensa di questo? Che non userei tutte queste maiuscole, ma che ma che tutto sommato sono abbastanza d'accordo con lei, senza quelle maiuscole, senza farne un caso più grosso di quanto non sia. Sembra ieri. 19 giugno 1984. La Francia chiude il gruppo A al primo posto e a punteggio pieno, battendo 3-2 la Jugoslavia a Saint-Étienne. Manco a dirlo, il protagonista assoluto è Michel Platini, che realizza tutte e tre le reti. Per il fuoriclasse della Juventus si tratta della terza gara su tre in cui è andato a segno e della seconda tripletta consecutiva. Con un Platini in queste condizioni, il commissario tecnico Hidalgo può guardare con grande fiducia alla semifinale di Marsiglia, in cui la Francia se la vedrà con il Portogallo. Sarà una partita più complicata del previsto, risolta ancora una volta da Roi Michel. Così. Che segnerà anche in quella partita, così come segnerà in finale alla Spagna, arrivando a detenere il primato assoluto per un europeo di gol realizzati. Ed è curioso notare, questo sì è davvero curioso, che siano due francesi a detenere il primato dei gol realizzati sia nei mondiali che negli europei. Jules Fontaine, per quanto riguarda i mondiali, nel 58 in Svezia con 13 gol, e Michel Platini nell'84 in Francia agli europei con 9 gol. Antonio ha chiamato dalla provincia di Modena, buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, Garanzini, lei che è un raffinato. Un giudizio su Abate in nazionale, secondo lei è compatibile? Su chi? Abate, ho capito bene, Abate. Compatibile, ma certo che sì. Se Abate è un giocatore, sì, non è uno di quelli che facciano sognare le folle, non è uno per i quali, insomma, non sono di quelli per cui compri il biglietto. Dici, oggi compro il biglietto e vado a vedere Abate. No, è più probabile che lo compri per andare a vedere, se parliamo di Milan, Ibrahimovic piuttosto che Cassano, non lo so, però in un'epoca in cui grandi campioni di richiamo la nostra nazionale non mi pare che ne abbia, Abate è un giocatore di rendimento, quando è in forma atletica, fisica, è un giocatore che ti dà un grande aiuto dal punto di vista della corsa, del cambio di passo, delle accelerazioni, eccetera. Immagino che lei non sia un fan di Abate, così, da quello che posso arguire, ma mi sembra che la sua parte la faccia. Poi, ripeto, ci sono stati in passato dei terzini o degli esterni destri che dir si voglia superiore a lui, questo sì. Lorenzo Firenze, buongiorno. Sì, buonasera. Velocemente volevo ringraziare la nazionale spagnola per l'esempio di onestà che ieri sera ci ha dato. Insomma, noi tutti in quanto italiani ci siamo un po'. Io più che ringraziarli preferirei, cioè, trovo più corretto scusarmi nei confronti loro. Bravo. Perché ringraziarli di che? Loro hanno giocato per vincere la partita e il girone, e hanno giocato perché questo è il loro DNA. No, quindi ringraziarli per una cosa mi sembra già di nuovo peloso. Io mi scuserei, ripeto, con loro. Forse sarebbe ancora meglio, quindi ringraziarli no, ma scusarci con loro, quello sì, perché gli abbiamo dato di ladri già prima di rubare, no? Evidentemente. E poi volevo dire su Balotelli, per me, ovviamente questa è la mia opinione, io lo vedo come un genio pazzo. Cioè, di un genio si piglia il bene e il male, si pigliano le cose buone, e ora uso un termine un po' inolorito, si pigliano anche le cazzate, quindi... Beh, senza con la C aspirata, come la dite voi in fiorentino, si può dire, dai, secondo me è più elegante, le cazzate, va bene. Sa qual è il problema però, Lorenzo? Che di questo soggetto, che appunto è capace in una frazione di secondo di passare dall'una all'altra cosa, non pratica uno sport individuale, pratica uno sport di squadra, anzi lo sport di squadra per eccellenza. E credo che questo sia un pochino il problema, perché se Balotelli facesse il tennista, lo sciatore, scelga lei la disciplina, insomma, alla seconda, alla terza, alla quarta volta che ne combina una, se la potrebbe prendere soltanto con se stesso, e in ogni caso non dovrebbe rispondere a nessuno delle sue alzate d'ingegno. Così invece delle sue sciocchezze o dei suoi crolli nervosi o insomma, campionario vasto, ci vanno in mezzo tutti, la pagano tutti, e così come tutti invece godono, no? Tutti hanno un risultato dalle sue prodezze, come nel caso di ieri sera. È difficile, secondo me è molto difficile. Credo che se questo fin qui, poi magari da qui alla fine Balotelli diventa il crack di tutti i tempi e diventa il più grande giocatore. Parlo delle prossime due settimane. Sino a qui, secondo me, in queste tre partite le speranze che si erano investite su Balotelli sono già un tantino incalando, non tanto da un punto di vista di rendimento, o meglio, pure da quello prima del gol di ieri sera, quanto perché il soggetto è a rischio anche quando è responsabilizzato al massimo. Perché, ripeto, se ieri sera quel colpo di gomito viene messo a fuoco immediatamente dall'arbitro, voglio vedere come finisce. Stefano Milano, buongiorno. Stefano dica. No, non dice perché evidentemente non c'è. E allora sentiamo, a proposito di geni e sregolatezze, sentiamo Cassano. Le vittorie sofferte sono quelle più belle. La cosa importante era passare il turno fino all'ultimo. Non vedevo l'ora che dall'altra parte si fischiava e finiva la partita, sono contento. Ma sì, noi italiani siamo abituati a soffrire, quando soffriamo però diamo sempre il meglio. L'importante era andare noi ai quarti. Vediamo con chi giochiamo domenica. Ah, la paura mai di nessuno. L'importante era andare avanti, adesso ci giochiamo le partite dentro o fuori con qualsiasi squadra. Antonino da Rovereto, 30 secondi, dica. Sì, buongiorno dottor Garanzini, tre cose veloci. Allora volevo dire, mi fa specie Buffon che parla di correttezza dopo il caso Muntari. Mi farebbe piacere vedere Giovinco giocare di più e non, secondo me, io vado un po' controcorrente, non mi sarei scandalizzato più di tanto se avessero pareggiato 2-2 Spagna e Croazia, perché comunque ognuno deve fare i propri interessi e questo lo sappiamo benissimo, nel calcio gira un sacco di soldi. Ma ecco, certo Antonino, e la Spagna ha dimostrato ieri sera come si fa a fare i propri interessi, e cioè non si combina nulla, si cerca di vincere, alla fine ci si riesce pur giocando male. Vedo che il messaggio è arrivato anche a lei. Bene, buon pomeriggio a tutti, dopo aver ringraziato Franco Piantanide in redazione, Matteo Comes in regia, appuntamento a domani.